1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. L'Italia si desta. Sono qui, cari ascoltatori. Sono le 7:17 minuti in punto, in questo momento, qui a Radio 24. E voi che fate? Noi siamo pronti a leggere i giornali. Siamo qui e vi ricordo che parleremo di che cosa? Beh, parleremo di quello che è successo ieri in Francia. Ne abbiamo già parlato alle 7:30, il leitmotiv della giornata. Il terribile attentato, 12 morti da parte di tre attentatori che al grido di Allahu Akbar hanno sterminato parte della redazione del giornale satirico Charlie Hebdo in Francia, oltre che avere colpito poliziotti, persone che erano lì per caso. 12 morti. E i giornali sono tutti con le aperture su questo, con chi declina sullo scontro di civiltà, chi è più duro, chi parla di attacco alla libertà, ma andiamo a scoprirle. Questo giovedì 8 gennaio, tra l'altro, avremo ospiti, vi ricordo, Alessandro Sallusti, direttore del giornale, Antonio Padellaro, direttore del Fatto Quotidiano, avremo il nostro Vincino, uno dei vignettisti più celebri in Italia, che parlerà insomma di questa tragedia vista anche da uno che ha vissuto e vive con la matita in mano da decenni per fare satira. Allora, intanto i titoli, il Sole 24 Ore, Parigi sotto attacco, strage in redazione a Charlie Hebdo, il Corriere della Sera, attacco alla libertà di tutti. E c'è da dire che tra l'altro tutti questi articoli, tutti questi titoli sono sotto la foto emblematica, la foto che è diventata già storia, e cioè l'istante prima di dell'uccisione a freddo di quel poliziotto Ahmed, che era per terra, implorava pietà a uno degli attentatori e costui gli ha sparato in testa col Kalashnikov. Tanto che Libero, ed eccolo qui i giornali che attaccano su questo fronte, Libero pubblica questa foto e il commento è impietoso: questo è l'Islam. Beh, un titolo che io non condivido, ma un titolo fortissimo, come dire, l'Islam identificato con quell'attentatore che spara in testa. Jihad, massacro nel giornale, questo è il titolo di apertura di Repubblica. La Stampa, attacco al cuore dell'Europa. Il Fatto Quotidiano, sangue sulla libertà. Il Giornale, eccolo qui un altro titolo molto duro con l'editoriale di Sallusti: macellai islamici, strage di giornalisti a Parigi. Il Secolo XIX, strage per una risata. Il Manifesto invece, una risata li seppellirà, è l'11 settembre della libertà di espressione. Il Messaggero, strage islamica contro la libertà, mentre attacco alla libertà è il titolo di Avvenire. E non si capisce su questo anche le critiche di chi dice non bisognerebbe dire islamica, strage islamica, nel senso che gli attentatori lo hanno fatto, il fatto di aver compiuto questa strage in nome dell'Islam, secondo quegli attentatori che in maniera distorta evidentemente interpretano la loro religione, non è un fatto secondario, lo hanno fatto in nome dell'Islam e quindi strage islamica. Mi sembra il titolo del Messaggero assolutamente azzeccato, non si capisce il perché si debba celare una verità banale che è sotto gli occhi di tutti. Allora, intanto la cronaca, leggo da Stefano Montefiori, il Corriere della Sera, pagina 2, ore 11:30, i killer bussano alla porta, è un massacro. Tra l'altro, scrive Montefiori, è incredibile come tutto sia nato da un errore. E cioè, a meno all'inizio, è stato un errore. I fratelli Said e Sherif Kouachi, insieme al complice Ahmed Murad, che peraltro è stato fermato nella notte, sarebbero loro i tre sospettati di questa tragedia. Ahmed Murad è già stato fermato. Hanno iniziato con un errore, cioè si sono presentati al numero civico sbagliato, vanno al 6 di Rue Nicolas Appert, quartiere della Bastiglia. È qui, Charlie Hebdo, gridano. No, non è lì. Gli assassini però non si perdono d'animo, si spostano di pochi metri e vanno al numero civico 10. quello esatto. E lì compiono la strage. In pochi minuti 12 persone uccise, 8 giornalisti, un uomo delle pulizie, un ospite della redazione, 2 poliziotti. La libertà è sotto attacco, la Francia è sconvolta. Si avvicinano e chiedono a una donna dov'è Charlie Hebdo. Dice questa donna: ero nel palazzo in fondo al corridoio, ho visto 2 uomini mascherati, armati, che cercavano la redazione. A un certo punto si sono messi a sparare in aria, volevano sapere dove fosse l'ingresso. Io sono riuscita a scappare. I terroristi salgono al secondo piano della redazione, incrociano una disegnatrice, Corinne Rey, la firma Coco del giornale, che era andata a prendere la figlia all'asilo. Con le armi puntate le dicono: digita il codice di accesso per aprire la porta della redazione. Lei apre e lì succede la strage. Parlavano un perfetto francese, dice questa super testimone a questo punto. Altri, nascosti dalle scrivanie, dicono: chiedevano a tutti: dite il vostro nome prima di uccidere. In qualche modo, evidentemente, dovevano identificare. Tra le persone identificate e colpite, il primo è proprio obiettivo principale, Charbonnier, il direttore, che anche lui faceva vignette satiriche. L'ultima tragica viene ricordata da tutti i giornali, abbiamo sentito anche il giornale radio, una vignetta nella quale profeticamente, in maniera drammatica, il direttore del giornale dice: ancora nessun attentato in Francia, e un talebano, uno vestito alla Osama Bin Laden. Aspettate per gli auguri, abbiamo tempo fino a fine gennaio. E il 7 gennaio è arrivata questa tragedia. Ovviamente ci sono giornali come Il Giornale, come Il Giorno, che pubblicano le vignette di Charlie Hebdo, uccisi per queste vignette. E molti giornali oggi le ripubblicano, così come ci sono tantissimi commenti, come potete immaginare. I tantissimi commenti, parto da Adriano Sofri su Repubblica, il fondamentalista, e l'agente Ahmed: uccidere e morire in nome di Allah. C'è proprio questa foto emblematica, l'istante prima in cui questa gente è a terra e viene freddato. Gli assassini, scrive Adriano Sofri, urlavano Allahu Akbar. Il poliziotto si chiamava Ahmed. Quando ieri l'apertura in rete dei giornali hanno scelto il fermo immagine del poliziotto ferito al suolo, raggiunto e finito con indifferente esattezza dal suo sparatore, non conoscevano il nome del morente. Si chiamava Ahmed. Dunque, quando ha avuto ancora la forza di alzare un braccio, forse per un gesto estremo di protezione, forse per chiedere pietà, e cosa c'è di più umano che aspettarsi pietà dal proprio assassino? Forse può aver pronunciato anche lui, in altro tono, il nome di Allah? Hanno ammazzato Volinsky e Ahmed e gli altri. Non abbiamo, quando scrivo, immagini dell'eccidio perpetrato dentro le stanze di Charlie Hebdo. Meglio così. O forse no, forse avremmo dovuto guardarli, questi efficienti vigliacchi, mentre trucidavano, e chissà quante lodi al loro Dio gridavano, e trucidavano uomini normalmente coraggiosi che facevano dei disegni. Forse gli assassini avevano una telecamera incorporata e si metteranno in rete per riscuotere l'ovazione dei compagni di ideali. Le immagini hanno un'invincibile doppiezza. Abbiamo il film della fucileria in strada, il poliziotto inerme, sgomento, ferito da lontano e finito mentre si torce al suolo. Gli assassini gli sono addosso di corsa, uno copre dal centro la strada, l'altro gli dà il colpo di grazia con una naturalezza meccanica, come in una esercitazione ripetuta 100 volte, come in un videogioco. Gridano che Allah è grande. Guardiamo con raccapriccio, altri avranno guardato con entusiasmo. Il terrorismo offre al suo pubblico pagante 2 gratificazioni preziose: i nemici uccisi a saziare il loro odio e l'efficienza sanguinaria a saziare la loro frustrazione. E poi ovviamente continua il commento di Adriano Sofri, mentre Ernesto Galli della Loggia, in prima pagina del Corriere della Sera, commenta così. Il titolo è: l'11 settembre europeo. Stabilire a quale gruppo della galassia del terrorismo islamista appartengano gli assassini che hanno compiuto la strage a Charlie Hebdo, decifrare in quale strategia si iscriva il loro delitto, sarà compito di polizia e analisti. In questo momento nelle nostre orecchie risuona solo ciò che, secondo testimonianze attendibili, essi gridavano mentre compivano la loro missione di morte. Allah è grande. Abbiamo vendicato il profeta Maometto. Oggi per l'opinione pubblica del mondo civile conta solo che essi abbiano detto queste parole, che nell'uccidere abbiano fatto appello all'Islam. Per esorcizzare un simile dato inquietante, mille altri dello stesso tenore di questi anni, la parte più colta e politicamente corretta dell'opinione pubblica di cui sopra ha adottato da tempo in Europa il termine islamofobia, e pensando così di risolvere il problema. Invece il problema c'è. Esso resta come un macigno a dispetto di ogni buona volontà e di ogni discorso edificante, ed è precisamente il problema dell'Islam, cioè di un insieme di religioni, cultura, storia, riguardante in totale circa 1,5 miliardi di esseri umani, dove nel complesso vigono regole diverse, per lo più incompatibili con quelle che vigono in tutte le altre parti del mondo, dove le donne non hanno gli stessi diritti e doveri degli uomini, e per le prime può essere considerato un reato perfino guidare un'automobile, dove la distinzione sociale tra sfera religiosa e civile è labile se non assente, dove aprire una chiesa cristiana è per lo più vietato. Se l'Islam è questo, allora noi vogliamo avere la possibilità di criticarlo come ci pare e piace, come abbiamo imparato a criticare il cristianesimo, il buddismo e mille altre cose, possibilmente avendo diritto a non rischiare con ciò la vita. Diritto che, tra l'altro, ci piacerebbe vederci anche riconosciuto da più di qualche voce autorevole di quel mondo. A proposito di quel mondo, oggi ne avremo ospite anche, tra gli altri, alle 8.35, Ejad Ahmed, che è membro della Consulta Islamica in Italia, un giornalista pakistano. Oggi viene intervistato anche Izzedine Elzire, il presidente dell'Unione delle Comunità Islamiche dal secolo XIX, Francesco Margiocco. Dice Izzedine Elzire, palestinese, 43 anni, islamico considerato moderato, imam di Firenze: l'ironia su Maometto ci offende, ma certo non può giustificare una tragedia. Mi dà fastidio l'offesa. La satira si può fare, si può ridere di tutto, ma non si possono toccare il profeta Maometto o il Corano. Il musulmano è una persona che per vivere ha bisogno di sorridere. La satira ha questo compito. Anche noi musulmani ridiamo di noi stessi. Abbiamo tantissime barzellette sull'imam, ma non sul Corano e né sul profeta. La libertà di espressione non può diventare ingiuria. La stessa Francia ha una legge che punisce chiunque neghi la Shoah. Sappiamo che i nazisti hanno sterminato ebrei, omosessuali, handicappati, e se qualche storico si azzarda a negarlo pubblicamente, per la Francia è un crimine. Anch'io non accetto quando si colpisce il profeta. Questo non vuol dire che capisco l'attentato di ieri né qualsiasi altro attentato terroristico. Così Izzedine Elzire al secolo XIX. Mentre Jean-Marie Le Pen, intervistato dal Giornale, dice: attenzione, l'Europa dorme. Intervistato da Gaia Cesare, dice: l'Europa dorme, e dorme su un vulcano. Così Jean-Marie Le Pen: i moderati si faranno estremisti e l'Europa sta dormendo su un vulcano. Vabbè, per quel che riguarda l'Italia, i riflessi ci sono. I riflessi sono questi. Fiorenza Sarzenini racconta che è pronto un decreto per una restrizione su passaporti, armi, privacy. Le nuove misure del Viminale, sollecitato lo sblocco della direttiva europea sull'accesso alle liste passeggeri, quindi le liste dei passeggeri degli aerei, controllo di coloro che tornano da zone cosiddette di guerra, i foreign fighters, cioè coloro che vanno a combattere all'estero, che hanno qualche periodo di reclutamento in zone dove si combatte, e insomma il pericolo, l'incapacità di prevenire, ma il tentativo è quello di stringere ora i cordoni. Le polemiche ci sono, noi le discuteremo ovviamente dalle 8.15, se si tratti di un atto di terrorismo, se si tratti di un atto di guerra, come scrive Alessandro Sallusti anche oggi sul Giornale, sarà il nostro ospite e dice: questo è il problema sono i macellai islamici, altro che Islam buono, Islam cattivo. Hanno fatto strage di giornalisti, qualcuno li ha addestrati, qualcuno li ha istruiti, e siccome loro hanno urlato che il mandante è Allah, allora io dico: per loro Allah è il capo dei terroristi che vogliono sopprimere le basilari libertà dell'Occidente. Questo è Alessandro Sallusti, ne discuteremo alle 8.15 prima della pubblicità. Però non mi sono dimenticato l'articolo, certo, questi sono gli articoli che fanno molto arrabbiare, fanno molto incazzare. Ma ne devo scegliere uno, e allora veniamo su cose italiane, che così ci buttiamo poi su cose italiane dopo la pubblicità. L'articolo che mi fa più incazzare di questa giornata è quello che ci scrive Flavia Amabile sulla Stampa. Sapete che c'è stata tutta la polemica sull'assenteismo nella pubblica amministrazione. Roma, via i tagli dei benefit e orari lunghi negli uffici pubblici. Sappiate che, racconta la Stampa, i dipendenti di Roma avevano anche l'indennità di effettiva presenza in servizio. 2 euro al giorno legati alla strisciata del badge per avere la garanzia che il dipendente entri davvero in ufficio. Sono 40 euro al mese, eh? Anche voi che lavorate nel privato, lo so, ogni volta che strisciate il badge avete solo per questo, se non ve lo striscia qualche collega, 2 euro. Non è possibile una roba del genere, vergognatevi, cazzo! Alessandro Power, Milan! Pura energia al mattino. Che bello, caro ascoltatore, ben ritrovato anche a te, eh? Sono molto contento. Vabbè, ovviamente gli articoli sulla vicenda di ieri a Parigi sono tantissimi, eh? Non c'è giornale che non dedichi le prime 10, 15, 20 pagine in alcuni casi a questo attacco alla libertà di tutti. Vi segnalo anche interessante l'articolo di Giampiero Gramaglia sul Fatto Quotidiano, che fa un po' la storia di questo giornale. Charlie Hebdo, nato nel 1970, chiuso tra l'altro dal 1981 al 1992 per una serie di processi e condanne, e un giornale che dal 2008 è in pratica blindato. Perché? Perché questo giornale è quello che decise di ripubblicare le vignette che in un primo momento erano state pubblicate da un giornale danese sull'Islam. Ci furono le polemiche allora, e Charlie Hebdo fu il primo giornale a dire le pubblichiamo noi, e le pubblicarono, e da allora hanno subito attentati. Sono sempre stati sulla lista degli obiettivi sensibili da parte dei terroristi. Testata simbolo, scrive Gramaglia, di una stampa libera e comunque sempre di opposizione. Elogio in sé della libertà di espressione. Il settimanale Charlie Hebdo aveva già ricevuto minacce terroristiche. E nella strage presso la sede del giornale, che è il singolo attentato più grave dai tempi della guerra d'Algeria, sono morti disegnatori celebri. Giornale nato nel 70, più giovane, meno conosciuto, anche più politicamente scorretto delle Calandre Enchaînées, testimoniava la persistenza, la vitalità in Francia di una tradizione satirica che in Italia si è invece persa, nonostante tentativi di resuscitarla. E poi la storia di questa rivista, ripeto, chiusa anche per un certo periodo dall'81 al 92 per processi e condanne. Vabbè, abbandoniamo per un attimo dai giornali questa vicenda, che poi ritroveremo dalle 8.15, intanto per tuffarci in che cosa? In vicende europee, italiane. Europee, il titolo del Sole 24 Ore sotto quello della strage è la deflazione dell'Europa. L'Europa è in deflazione, l'Eurozona è entrata in deflazione, i prezzi al consumo per la prima volta da ottobre 90 del 2009 sono negativi. Dal 2009 0,2 in negativo per cento a dicembre. Dunque pesa il crollo dei prezzi di energia, stabili cibo, alcol e tabacco, ma insomma siamo in deflazione. Risale lo spread, tutta l'analisi di quello che questo comporta con Andrea Franceschi a pagina 6 del Sole 24 Ore, e poi soprattutto c'è anche il dato sulla disoccupazione. L'Europa è in deflazione e poi l'Italia ha un tasso di disoccupazione mai registrato, ed è un record, 13,4% da parte dell'Istat certificato. Su questo sia il ministro Poletti sia Renzi dicono no, bisogna aspettare per vedere gli effetti di questa del contrasto alla disoccupazione dalle leggi. Il dato di fatto è questo, è la disoccupazione ai massimi storici, che non sono certo notizie buone quelle che circolano all'inizio del 2015. Persi a novembre altri 48.000 posti di lavoro. Questo è il titolo di pagina 10 del Sole 24 Ore. Claudio Tucci racconta il secondo calo consecutivo del numero di occupati. A novembre sono stati persi altri 48.000 posti rispetto a ottobre, e già a ottobre su settembre il calo era di 65.000 unità. il tasso di disoccupazione sale al 13,4%, nuovo massimo storico. La doccia fredda anche sul fronte under 25, cioè la disoccupazione giovanile. La quota dei giovani disoccupati sul totale di quelli occupati o in cerca è schizzata al 43,9%. Un aumento di 0,6 punti percentuali sul mese, un aumento di 2,4 punti nel confronto tendenziale. In Eurolandia siamo quartultimi, dietro di noi peggio per la disoccupazione giovanile fanno solo Spagna, Grecia e Croazia, mentre le performance migliori si sono avute in Germania. Pensate che in Germania la disoccupazione giovanile è il 7,4%, 7,4%, non è il 43,9%. In Austria è al 9,4%, in Olanda al 9,7%. Dati impietosi, nonostante l'ottimismo, per carità, l'ottimismo ci vuole sempre, però i dati sembrano impietosi. Voglio andare alla questione italiana, dove tiene banco ancora tutta la questione dei decreti fiscali. I decreti fiscali, sapete che, se non lo sapete, insomma, io ero in vacanza, ma su tutti i giornali è stata analizzata questa vicenda. Chi ha seguito Radio 24 lo sa molto bene. Il 3 gennaio è scoppiata la polemica dei decreti fiscali, perché ci si è accorti che c'è una norma del decreto sul fisco che prevede la non punibilità se l'importo evaso è inferiore al 3% dell'imponibile. Una norma che qualcuno ha detto vale e favorisce, tra gli altri, Silvio Berlusconi rispetto alla condanna per frode fiscale avuta. Ecco allora che subito è partita l'accusa, l'inciucio Renzi-Berlusconi, il patto del Nazareno e soprattutto, ancora incredibilmente, a 5 giorni da quando è venuta fuori questa vicenda, non si riesce a scoprire, perché non lo dicono, chi diavolo l'ha fatta questa norma. È stata approvata in Consiglio dei Ministri in maniera collegiale, dice il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Delrio. Va bene, ma chi l'ha scritta? Chi l'ha messa? Chi l'ha firmata? Qualcuno l'avrà partorita. Qualcuno l'avrà scritta. Qualcuno. Renzi ieri ha detto la manina è mia, doveva tranquillizzare i deputati del PD e quindi si è assunto la responsabilità politica. Il titolo di tutti i giornali è questo: Renzi è mia la manina. Già, ma tutti i giornali si chiedono, d'accordo, la responsabilità politica, ma chi diavolo ha scritto materialmente questa norma? Eccolo qui, Repubblica, all'Assemblea dei Deputati PD scatta il processo a Matteo. La norma salva Silvio, sta spostando gli equilibri dentro il PD, può far sentire i suoi effetti nella partita del Quirinale. Ora ci vuole un candidato che non sia figlio del patto del Nazareno, dice Bersani, che incarni la lotta all'illegalità e a favore della massima trasparenza. Intanto però Renzi si assume questa responsabilità, dice la manina è mia, c'è il compromesso tra Renzi e Padoan per cui il tesoro accetta il rinvio sul salva Berlusconi e che verrà presentato in Consiglio dei Ministri per essere modificato e venire tolto, per essere tolta quella norma il 20 febbraio. Su questo Dino Pesole del Sole 24 Ore dice i pericoli del rinvio, il tempo in questo come in molti altri casi è un fattore decisivo, scrive Pesole. Allora, senza attendere il 20 febbraio, si può consegnare all'esame del Parlamento il testo del decreto fiscale rapidamente emendato, così da escludere senza indugi la frode. In un mese si possono apportare le opportune correzioni, anche alla luce delle osservazioni tecniche emesse appunto dalla Commissione Gallo. Il testo potrebbe così approdare all'esame del Governo per il via libera definitivo il 20 febbraio. Viceversa, si andrebbe alla fine di marzo. E se il Premier ha confermato che la contestata norma del 3% va attribuita alla sua manina, resta l'interrogativo su chi abbia materialmente scritto e inserito la disposizione, come abbiamo detto. E c'è poi la questione di fondo: l'impianto della legge delega crea effettivamente le premesse per un più civile rapporto tra fisco e contribuenti, è un aspetto decisivo per provare a recuperare almeno parte della perduta competitività. Ecco perché non si può concedere il lusso di ulteriori rinvii. Sul Fatto Quotidiano c'è una pagina di Stefano Feltri, tutte le balle del governo sulla norma salva evasori. Si fa tutta una ricostruzione di come sia stato approvato tutto in Consiglio dei Ministri del 24 dicembre, su come sia stato tutto approntato dalla Commissione Gallo, però la commissione Gallo, il presidente Gallo dice: io quella norma non l'ho messa, quindi evidentemente l'ha messa qualcuno dopo. Secondo il Fatto Quotidiano, addirittura sarebbe avvezzo Renzi a fare che cosa? Ha un metodo, le leggi se le scrive da solo e male. Questo almeno è il titolo di pagina 9. Wanda Marra racconta che spesso Renzi ha una prassi, quella di far approvare dei decreti anche in Consiglio dei Ministri con degli spazi vuoti, proprio in bianco, che poi vengono riempiti successivamente. Nel mirino è finita anche nei giorni scorsi Antonella Manzione, che era il funzionario dei vigili urbani chiamato a Firenze quando era sindaco da Corenzi, ora l'ha voluta fortemente come capo dell'ufficio legislativo di Palazzo Chigi. Insomma, il mistero rimane su chi l'abbia scritta questa diavolo di norma, a meno che non sia stato il nostro Mauro Meazza, perché adesso se è il momento di venire fuori, è il momento, caro Mauro, di dire le cose come stanno. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno Alessandro, innanzitutto bentornato. Grazie. Caro debosciato. Grazie, debosciato. Tutti debosciati, no, io adesso sapevo che mi avresti tirato in ballo, però ti posso dire che la manina non è la mia. Non è la tua? No. La manina no, è quella di Renzi, quello si è attribuito, la manina è sua. No, tu dicevi proprio come estensore della norma. No, lui dice la manina è sua, però ci vuole un esecutore. No, io nego recisamente, guarda, poi ti voglio dire, proprio oggi sul Sole 24 Ore annunciamo che è praticamente pronto l'accordo Italia-Svizzera, tanto per stare in tema di, come dire, di danari sconosciuti al fisco. L'accordo è pronto, tanto più che c'è anche il tweet, ma questa volta non è del Presidente del Consiglio, ma è del Presidente della Commissione di Politica Estera Svizzero, che ha twittato ieri che l'accordo c'è, è fatta, così, così essendoci il tweet, a questo punto dovremmo essere abituati che allora c'è anche la norma. Insomma, di solito non sto più capendo se i tweet seguono la norma o precedono la norma, però non ho visto il tweet su questa cosa del 3%, effettivamente questo fa sì che la non sia efficace. Vabbè, senti, tu conosci l'ape? L'ape non l'insetto, no, l'apostrofo ape. Ape. Ecco, non l'insetto, non nel senso dell'insetto, ma di attestato di prestazione energetica. Ecco, se non lo conosci dovresti informarti, perché è importante se tu vuoi vendere, comprare casa e anche affittare persino, ma soprattutto oggi ti puoi informare sulle pagine di Casa 24 che sono con il Sole 24 Ore. E poi una vicenda curiosa ti voglio riferire. Nelle pagine di finanza diciamo di queste società piccole che in Inghilterra pagano i loro sottoscrittori di obbligazioni anche con beni tipo cioccolatini, biglietti per le corse dei cavalli e così via. Non so, una volta al mese ti danno una scatola di cioccolatini insieme alla remunerazione. Tu ridi, ma è così, ecco, succede anche questo. Poi questo per dirti delle questioni un po' finanziarie invece che di quelle, diciamo, della vendita. E poi naturalmente, vabbè Alessandro, oggi purtroppo volevamo essere magari anche più giocosi, ma a questo punto Je suis Charlie, mi viene da dire, sì. Hai visto che anche noi appunto con la pubblicazione delle vignette di Charlie Hebdo prendiamo posizione, segnaliamo questa cosa terribile che è successa ieri. Va bene, sono arrivato al mio momento, prima volta nel 2015. Momento, esatto, è l'esordio del 2015 di Mauro Meazza, la manona del decreto 3%. La manona del 3%, allora vi annuncia il traffico. È Alessandro Milan, bellezza, e tu non puoi farci niente. È proprio niente. E allora, a proposito di Renzi, del Presidente del Consiglio, mi voglio concentrare su una pagina del Fatto Quotidiano, pagina 11, a firma Davide Vecchi. C'è anche un ampio richiamo in prima pagina, il titolo è questo: lo Stato paga i debiti di papà Renzi. Devo dire che la vicenda è abbastanza complicata, come riconosce lo stesso Fatto Quotidiano. La vicenda riguarda la società del papà di Matteo Renzi, Tiziano. vale a dire la Kill Post, che è una società dichiarata fallita nel marzo 2013, sulla quale la Procura di Genova ha aperto un fascicolo. Tra l'altro, iscritto nel registro degli indagati, è proprio il padre del Premier con l'accusa di bancarotta fraudolenta. Allora, la vicenda è questa: secondo i magistrati liguri, Tiziano, cioè il padre di Renzi, avrebbe ceduto la parte sana dell'azienda alla E26. Intestata la moglie Laura Bovoli, società che all'epoca dei fatti aveva tra i propri soci anche Alessandro Conticini, fratello di Andrea, marito di Matilde Renzi, sorella del premier, a sua volta socia delle 26. Insomma, una vicenda familiare. Alla Kill Post rimangono i debiti e un mutuo da 496.717 euro e 65 centesimi, un mutuo stipulato nel luglio 2009 con il credito cooperativo di Pontassieve, una cifra sostanziosa concessa con un mutuo chirografario, cioè senza accensione di ipoteche, ma solo basato sulle garanzie. E la banca che ha concesso questo mutuo è guidata da Matteo Spanò, grande amico e sostenitore del Premier. Spanò era stato nominato direttore generale della Florence Multimedia, società della provincia di Firenze creata dal neoeletto Renzi per la comunicazione, poi finita anche nel mirino della Corte dei Conti. Spanò dunque elargisce il prestito della Kill Post di Tiziano Renzi, che per ottenerlo riceve la copertura garanzia del fondo per le piccole e medie imprese da Fidi Toscana SPA della regione guidata da Enrico Rossi, partecipata da Provincia e Comune di Firenze. Fidi Toscana delibera la copertura dell'80% e il 13 agosto 2009 la banca versa i soldi alla Kill. Ecco, qui sta l'inghippo secondo il Fatto Quotidiano. Fidi Toscana, che dunque è partecipata dalla regione e dalla provincia e il comune di Firenze, ed è quindi le istituzioni toscane saldano parte del mutuo della Kill Post e vengono poi a loro volta rimborsate dal tesoro. Ecco qui il giro abbastanza complicato che fa titolare al Fatto Quotidiano: lo Stato paga i debiti di papà Renzi. Questa ovviamente è la denuncia che ha bisogno di conferme, smentite da parte delle istituzioni, a cominciare dal presidente della regione toscana Enrico Rossi, evidentemente. Mentre per quel che riguarda politicamente, che succede? Succede che Berlusconi, questa è la notizia politica che riguarda il centrodestra, ha chiesto ufficialmente lo sconto di pena. La richiesta dell'abbuono di 45 giorni previsto dalla legge per quello che sta scontando, cioè i servizi sociali, l'aveva già annunciato, come racconta Paola Di Caro sul Corriere della Sera, a pagina 29, prestissimo tornerò alla politica a tempo pieno. Ieri Silvio Berlusconi ha compiuto il suo passo ufficiale tramite gli avvocati, ha chiesto uno sconto di pena di 45 giorni sull'affidamento in prova ai servizi sociali che sta svolgendo dallo scorso 23 aprile. Una richiesta di stanza è stata presentata al Tribunale di Sorveglianza di Milano, la decisione dovrebbe arrivare entro la prossima settimana, fa sapere il Corriere della Sera. Nella richiesta Berlusconi si dice anche pentito di alcune parole dette nei confronti della magistratura e di avere riflettuto molto sulla condizione degli anziani, questo durante i 7-8 mesi circa trascorsi, credo una volta a settimana, in affidamento ai servizi sociali. E dovrebbe arrivare questo abbuono di 45 giorni. O se invece guardiamo all'orizzonte un po' più internazionali, c'è Angela Merkel in questo momento molto preoccupata. Ieri è andata in missione a Londra con l'obiettivo di evitare quella che viene definita la Brexit, cioè l'uscita della Gran Bretagna, del Regno Unito dall'Unione Europea. E soprattutto se nel 2017 ci sarà il referendum per prendere una decisione in merito, con la forza anche del partito UKIP, il partito indipendentista anti-europeo, che anche nelle ultime elezioni è andato molto bene, ecco che Angela Merkel è preoccupata. Tutti i giornali ovviamente dedicano una pagina a questo viaggio, a questa missione di Angela Merkel a Londra da Cameron per evitare l'uscita della Gran Bretagna. Questo è il senso della nuova leadership di Angela Merkel, che anche sul Corriere dice secondo fonti autorevoli, sarebbe una catastrofe l'uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea. Mentre ieri effettivamente strideva un po' con tutto quello che è successo in Francia, con la tragedia non solo francese, non solo europea, mondiale, che riguarda tutti noi. Di che si discuteva in Italia ieri alla Camera? No, al Senato, credo, al Senato, di legge elettorale. Ebbene sì, di legge elettorale. Nell'88esima settimana decisiva per la riforma elettorale, proprio il giorno in cui magari per un giorno si poteva non discutere di legge elettorale, tanto discutono, l'importante è che la facciano. Ieri si discuteva di legge elettorale, per cui strideva tantissimo se uno girava sul canale del Senato a vedere da una parte le immagini, non so, su tutti i TV internazionali della tragedia della Francia, e lì i senatori discutere su soglie, rappresentanze, gruppi, liste. Comunque, l'ultima è che l'Italicum sarà in vigore l'anno prossimo. La clausola di salvaguardia, cioè viene approvato entro questo gennaio, anzi pare che Renzi abbia detto o gennaio è il mese in cui le riforme si approvano oppure cade l'architrave della legislatura, cioè a gennaio si vede se la legislatura esiste o resiste. Qualcuno già dice, ecco, punta alle elezioni anticipate. In realtà, se la legge elettorale verrà approvata entro gennaio, dovrebbe entrare in vigore però nel 2016 la clausola di salvaguardia, proprio per dire, vedete che non puntiamo alle elezioni anticipate. Comunque staremo a vedere. Ah, se vi interessa, il ministro della salute Beatrice Lorenzin è incinta di due gemelli, così ha fatto un'intervista su Oggi, è la copertina e quindi viene citata dai giornali. Auguri ovviamente al ministro della salute. A proposito di gravidanze, a proposito di figli, la notizia di cronaca che più fa discutere è quella di una madre che dice in realtà siamo due le madri, è una madre che ha avuto un figlio attraverso la fecondazione eterologa in Spagna con un'altra donna, cioè la madre biologica ovviamente è lei, ma si è sposata con una compagna e ora ha chiesto al comune di Torino di registrare all'anagrafe che quel figlio è figlio di due madri, e per la verità due figure genitoriali, perché non si può dire madre e padre ormai, due figure genitoriali. Ieri prima ne abbiamo discusso anche con Mario Dinolfi. Ora mio figlio ha due mamme anche per la giustizia italiana. Intervistata da Lodovico Poletto su La Stampa, pagina 17. Eccola qui, al telefono alle 8 di sera la donna italiana residente a Barcellona che ha ottenuto dalla Corte d'Appello di Torino il diritto di registrare all'anagrafe il suo bambino nato all'interno di un matrimonio gay celebrato in Spagna nel 2009. Lei è la mamma donatrice dell'ovulo, l'altra mamma, la sua ex compagna, è colei che l'ha portato in grembo per 9 mesi. Il donatore di seme ovviamente è anonimo. So e come che la mia vicenda è diventata un caso in Italia. Sono anni che ci battiamo affinché il nostro bambino venga registrato anche all'anagrafe in Italia. È finalmente arrivata la sentenza. Se ho fatto e se abbiamo fatto tutto questo è solo per il nostro bambino. Per l'Italia io sono nulla. Per la Spagna invece sono una delle due madri. Ma per il paese dove sono nata e dove il mio piccolo ha una famiglia, io sono zero. E questo avrebbe potuto causare problemi anche a lui. Pensi a un'emergenza sanitaria, dove serve il consenso di almeno un genitore, oppure a un'eventuale eredità un giorno. Se io non sono un genitore, lui non ha diritto a nulla. Mi fido certo della mia famiglia, ma certe cose devono essere chiare. E così hanno chiesto di registrare che questo figlio sia figlio di due mamme. Anche su Repubblica viene intervistata: mio figlio ha due madri, ora Fassino rispetti la sentenza del giudice. Che farà il comune di Torino? Lo scopriremo. Ma intanto, per la carta costa, l'articolo più inutile scovato sui giornali. Oggi c'è mezza pagina intensa, 39, del Corriere della Sera di Enrica Roddolo, sui guanti bianchi. Ricordo di Grace, la principessa di Monaco, presenta i gemelli con grande festa. La principessa, che non so chi è, ha presentato i suoi gemelli, mamma Charlène, sulla testolina di baby Jacques, l'erede al trono dei Grimaldi, ha presentato i gemelli al mondo. Ma chi se ne frega!